I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Con la visita di ieri del Presidente del Consiglio Renzi si è aperta ufficialmente la cosiddetta settimana della moda a Milano, ma al di là del glamour, dei VIP, vale la pena ricordare che la moda è innanzitutto una delle industrie fondamentali di questo paese e fondamentale soprattutto per le cosiddette 4A che compongono la forza del nostro Made in Italy. Oltre infatti all'abbigliamento c'è l'alimentare, il legno, arredo e l'automotive. I dati sul 2016 segnalano una crescita del 2,5%, ma come evidenziato anche da Mediobanca è interessante notare che le prime 100 aziende per capitalizzazione nel settore della moda sono cresciute in questi anni sia come fatturato che come occupati più della media del settore complessivo del manifatturiero. Chiaramente a trascinare e a creare questi numeri nel settore moda sono stati in particolar modo i mercati esteri, il 5% in più e il 6% in più addirittura se si va ai mercati non europei, un dato particolarmente positivo se si considera che in questi anni è venuto meno all'appello dei mercati esteri proprio uno dei più fondamentali, ossia il mercato russo. Infine, in un settore che è già molto orientato all'export, spiccano i numeri dell'occhialeria e della pelletteria, rispettivamente il 90% della produzione e il 70% della produzione se ne vanno all'estero. Ma la nota positiva è anche che esportano di più le aziende del settore moda a proprietà italiana di quelle a proprietà straniera. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Non è tutto oro quel che luccica. Questa volta però non lo diciamo a proposito del metallo giallo, ma a proposito, purtroppo nuovamente, della borsa valori. Il rimbalzo di oggi, la ripresa di titoli bancari, di titoli energetici, la ripresa del petrolio, hanno dato nuovamente quel po' d'ossigeno a un mercato che continua ad essere sotto di quasi il 25% rispetto all'inizio dell'anno e soprattutto ha visto una grande fuga di capitali americani, soprattutto dei mercati europei. Nei primi due mesi dell'anno non a caso sono stati quasi 35 miliardi di dollari in meno sul mercato europeo proprio di provenienza americana. Ma c'è da fidarsi ancora di questo rimbalzo? Prudenza, ritorniamo a dire, non è tutto oro quel che luccica, perché l'unica cosa che continua a luccicare è quella dell'oro. Malgrado la leggerissima flessione registrata oggi, il metallo giallo è rialzo del 17% sull'inizio dell'anno, cioè parliamo di nemmeno due mesi, ed è a questo punto in dirittura d'arrivo per avere il miglior mese degli ultimi 4 anni. Persino gli ETF, ovvero quei prodotti sofisticati che vengono quotati in borsa e che tracciano l'andamento di una materia prima, in questo caso quello proprio dell'oro, sono in rialzo del 16%. Ma che cosa si può dire a questo proposito? Continuerà? Gli analisti dicono questo: tenete d'occhio i 1200 dollari, se l'oro scendendo si avvicina a 1200 dollari, beh, quella si chiama soglia di supporto. Se per caso dovesse sfondare, allora potrebbe esserci una ritirata, altrimenti, visto l'andamento attuale, per ancora un po' di tempo, l'oro continuerà a brillare. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.